dico, l'ha confermato parecchia gente, anzi, ti deve rendere fortunato, perché per avere un'antenna di macchina stai sparando alla grande, cavolino, ci mancherebbe altro. Qua sopra dove la prima. Quella mi ha tagliato le gambe, e quindi sono di tu. Poi non ricordo, l'ho pigiato, indietro, non ve l'ho messo adesso, ci avevo messo la super legge, avevo pochi tipi di differenza l'uno all'altro, una più bassa, l'altra più alta, tutto lì. Uno di più, uno di più, Una a metà, l'altra a 50, tutto lì. A girare qualche. Avanti, chi è nel canale 5 che vuole entrare? Avanti con la buonasera. Negativo, negativo. Comunque, una cosa c'è anche da dire, penso, per quello che ho sentito, Spalviero è quando cambia casa è omicidiale. Arrivava 9:10, figura di tu, e già lì, abitano già lì in pratica, adesso deve sistemare un po' le cose, adesso, e poi, piazza. Lo sai perché lo dico? Perché anche quando era giù quelle coordinate della vecchia casa, caspita, arrivava pulitissimo, chiaro chiaro, era una cosa anche piacevole sentire, la verità, non perché sia lui o compagnia bella, però guarda, come arrivava qua era una cosa spettacolare. Guarda, se tu nel periodo che eravamo io e Claudio a Carbonazzi, c'eravamo tutti due la mantova su piazzata, facevamo il muro di Bellino, parlava sulla gente di Carbonazzi due ore con noi, e poi la parte della teologia poi avevamo fatto i fatti sui quasi due mesi, poi abbiamo cominciato io mi sono occupato di Lignano, Claudio ci aveva Lignano lo stesso, allora sono fuggiti poi che stavamo puntigliando e basta. Siamo tornati nuovo normali, tutto lì. Però dovevamo mattare l'Alghero, perché dovevamo mattare l'Alghero, io e lui, eravamo gli unici che eravamo belli mattare. E ci facevamo schiattare a quegli Alghero. Figurati. Ma guarda, dopo io sono convinto, adesso perché non mi interessa di mettere i lineari e contro i lineari e via dicendo. Ma se io qua, poco a poco, non dico molto, mi metto un linearetto di quello piccolino. Guarda, cambia la giornalotte. Non so la giornalotte. A me piace il cavo l'antenna di quella celeste. Studiata con 79 in salone. Non si conti. E scappa, scappa, adesso qua. Guarda, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10. Ah, forse se mi mette una spina, Guarda, sì, ho diventato un bombò, sei diventato un bombò col pedizio, ma leopardato. La storia è presa con gli aveva 100 watt, già la cosa si appontenta col palo. Cioè, già tu dici di più come ci darebbe un lineare. Sì, sono basso adesso, mi. Che abitina, boh. Guarda che a Sassari vale a Moro è difficile, eh? dice. Lo sai cosa è tenere la posizione molte volte, infatti io confermo quello che mi hai detto, è la posizione, io sono aperto, ho aperto un po' dappertutto, capito? È tutto qua, capito? Sì, infatti, io te l'ho detto molte volte, conta anche la posizione. Infatti, la posizione vuol dire molto. Cos'è Giuseppe? Beh, Giuseppe, Antonello sì, Antonello. Insomma, ragazzi, avanti a tutti. Ma chi? Antonio io. vacca, quella cosa vacca, mia bomba da vento. Attenzione da sotto, gli ha dato l'invia, tutti canto a terra. Buonasera, buonasera. vita. Ogni tanto ci vuole la buonanza e Natalia. Per quelli che si sentono male, che sono a dolore, ci vuole sì. Non c'è la cella. Giuliano, Pompuscu. No. Simona gli aveva detto che mi mette fuori stanotte in terrazzo, mi ha detto, che facciamo, spegniamo la luce e facciamo l'amore col cotolo, col letto, perché stanotte c'è caldo. Dai, cosa ti dice, come ti trovo, sei mio, Pomporco? Grazie. altri mesi, questo sta aumentando. Ma poi dimmi una cosa, ma ha pagato già quello lì? Dice, sì che mi ha pagato, e allora non li ti paghi di contai. Troppo QRM c'è stasera. sentivano al giorno di Davide. C'erano troppo QRM, mi sono stato pure un QRM, un bisantenna. È normale, è normale, la ricezione fa parte anche di quello. Già lo so, non riesco a sentirlo con l'Antonello lì, non a compagno, ma all'altro, quello che è lì. KK, va bene Neda, sono contento che tu stai uscendo quasi da coso, da imperatore lì, da sopra quel trono bello alto. Ora le sei attento che mi mangiare qualcuno con una zucca. Già faccio la mitragliatrice io. Cappa. Edo mi bombardeggia l'antenna e io lo mitraglieggio subito. Andà bene, andà bene. Oh Giulia, e beh, perché? Ma se ha fatto il pallolino sarai tutto pisciata, va. No, gli ha ciambato, gli ha buso, lui gli ha buso Mario. Ah, Lino Snote, bambino asciutto. Insieme a Parchetto, che proprio mi ha abbandonato e se ne è andato a pescare lui. Ma te l'immagini questo Parchetto, ma? Già lo credo, poverino Parchetto. Era dalle 3:30 in radio. È vero, oh Giulia. Sì, siamo la faccia a girare. E cos'è mi viene di sonno, so che sta a capire mai. Recuperabile per quella cosa che avevi detto, Natalizio. Ok, adesso vediamo. Scommetto che sotto quella base del PL è tutta catavrata già. No, che la vivo cominciata, la vivo sotto. Magari dentro c'è la frase, che bisogna vedere, bisogna abbrirla, no, faccio abbrirlo. Ma lo so che con le antenne fanno con la fine lì. KK, andrà bene Meda. Sì, vabbè, allora ti dico me. Vado a un amico mio che me l'ha chiesta e se la mette a posto. E io me la faccio con la canna da pesca. L'antenna, capito, quella che devo fare. Andà bene Meda, andà bene Meda. No, io adesso devo riparare quella mia, piano piano, pezzo per volta, se ci riesco, la recupero quella matta, guardai. Certo che quella lì è un peccato, cazzo, perché è più semplice della turbo, e qua, è dal giorno alla notte. Io l'ho messa, questa qui, la 5 l'ho messa. Ma è molto più semplice della turbo, la turbo a me non è mai di azzurro, la bimba si dice, tre russi ne ha giocata che si azzurro a chi mi ha fatto diventare maco. Gappa di positivo, no, la 5 secondo me come ricezione è migliore della turbo, perché io ce l'ho. In trasmissione va un bel bene, perché non c'è niente da dirle, però in ricezione è un guaio, no? Non senta nessuno, non sento. Cioè prima ascoltavo un bel di gente, piccolina piccolina, in transito, o rientrando verso Sassari, oppure salendo lì verso Patata, e invece ora non c'è dubbio nessuno. Infatti, anche a me mi faceva difetto di ricezione, io ricevevo un metro in massa, vacca, tu riceveva la grande. l'ho visto che i segnali sono aumentati. Cappa di positivo. Infatti io, se vedi qui controlli, non ne chiedo mai, perché non ne chiedo? Perché non mi interessano, perché qui siamo a un tiro di schioppo e ci sentiamo bene tutti. E bello è quando tu stai parlando con uno di Borone, con uno di Macomer, con uno di Pattara, uno di Buzzurro, che riesce a tirarmi fuori e loro riescono a sentirti. Perché come diceva Roberto, è inutile che arrivi a casa di come potenza e da voi non interda nessuno che si riposi. Infatti se non senti non serve a niente l'antenna, devi sentire per poter parlare, capito? È inutile che tu ci arrivi, che ti sentano gli altri e tu però non senti a quelli che devono convivere con te. È già vero, già. Ne stavamo parlando con Falchetto stamattina. Vedi adesso Falchetto. Falchetto c'ha un antennino, c'ha un'antenna antica che il nonno, perché c'ha una B27L. Però, hai visto, parla con Borone, parla con quello, parla con Pattara, parla con Bogiuso, e lo sentono e lui li sente. Il bello è quello, è che lui li sente. E io invece, cercato da qui a lì, adesso non sento più nessuno. Io come passano le gallerie, secondo chi è in radio, secondo che radio c'è, non lo sento più. E così facevamo quel difetto. Ah, lo sai tu, a domenica lo sai quanto mi rompe le balle che non lo sento quando ho fatto le gallerie, perché uno che ha i ratti normali dell'apparecchio non arriva, manco per i cartoli. A me che rompiamo per i cartoli, come ti passa per le gallerie non lo intendivo più, boh, finita la ministra, ma poi lo intendivo il borra che andava di quota. E dopo lo ripigliamo il suo saccaggio là, vicino a cosa, vicino a Polaghe, perché lì si solleva giustamente, però essendo nel posto lì, zona cemento piccio, non lo sento più, è vero, mentre io prima lo sentivo, come usciva dalle gallerie, anche se non era al posto, riusciva a tirarlo fuori. Adesso sino a che non è lontano, in alto non lo sento. Infatti, ma spero di poterlo sentire adesso con questa antenna, perché adesso già è più alta e dovrei aver guadagnato qualcosa in ricezione, vediamo un po' come si comporta. Cazza gatta, riprenditela con poco e non essere geloso, lo sappiamo che tu sei piccolo e nero. Io adesso vi faccio schiattare, in un modo così a me non vi faccio schiattare a voi. Quando dici così, guarda, ci fai, ci fai, ci fai. Io voglio la mangiata, lo faccio qua, mia va, alla faccia vostra. Ah, ora mangiamo un paio di bistecca, vengo subito. D'accordo, vai a caricare, vai. Così quella cupa diventa sempre più tonda. Andiamo a fare un po' di su buon poco, vai, vai. Ma te l'ho mangiato. Ma l'hai rinchiato per magari, lo bugni, Giulia. Non ti preoccupare, non mi puoi dire che l'ha passato a me. Ah, va bene, riprendi il palco. Già va bene, dai. L'importante è sentirci, sentire, compagnia bella, l'importante è quello, dai. Poi chi arriva di più, chi arriva di meno, è relativo, dai. L'importante è sentire chi parla, capito? Perché è inutile, torniamo sempre a quel discorso che noi arriviamo in capo al mondo e il capo al mondo non arriva a noi, è quello del discorso, dai. Si conferma Mario quello che hai detto, tutto qua. Vabbè, l'importante è che piano piano poi si sistemano le cose e va bene così, dai, riprendi la tariffa. Vabbè, il mio fuoco. Permetta la gara. Adriano, come se la va? Ciao, belli e belli a tutti quanti. Ciao Antolino, Falchetto e Mario. Ma sempre la maniera della potenza, appena comincia appena arriva il tempo se ne potranno i scintille. E a proposito dei tuoi scintille, quando il segnale al di là se ha cambiato qualcosa? Devi pensare che ho cambiato apparato io, però prova per quando senza modulazione. Ecco, senza modulazione. Non posso fare una comparazione con l'altro, è lo stesso apparato, però ce lo smette strano questo. Volevo sapere se aveva migliorato, che ho piazzato quella cosa là. Non posso fare una comparazione, non posso farla perché è un apparato diverso, non uso quando uso quello che uso normalmente. Ti rubo su di. Ciao belli be. Ciao, ben entrato, ben sentito. cappetto ne hai? Ma è stato che non sono rientrato in questo. d'accordo, non c'è problema. Caparoce, va bene, va bene. Avanti, Mario. Io non lo sento, Andrea. Come va, sì? Cazzillo, posto il mio picciate, tutta la calzoncina. Non accoppiate ma commutate, mi sta arrivando il locale. Italia però mi do la ricezione IDX. L'obolo della reazione è molto alto, ultimo per IDX, però il locale perde, può perdere anche un 1-2 dB, il che è molto, si può perdere qualcuno da Macomer tranquillamente con 2 dB, 2 punti S te lo perdi sicuramente con la Macomer. È un'antenna ottimizzata per l'IX, probabilmente prima non ti sei informato prima di comprarla. Capo, no, già mi sono informato, tutti quanti mi hanno detto che era buona, che ci aveva dei punti di guadagno, quello e quell'altro, invece poi che l'ho comprata, che l'ho piazzata, mi sono accorto che molta gente che ascoltavo prima ora non la sento. Qualcuno ha detto che forse non c'è la massa buona e non riesce a percepire niente, però fatto sta che molta gente non la sento, tutto lì. Mario, la potenza per quella, ognuno si vanta la sua vaga, logicamente chi ha la turbo si vanta la sua turbo, e chi ha la roba si vanta la sua, ognuno si vanta la sua vaga. Oh, adesso sono con il presidente Lincoln, dov'è? È schifo fa. Dico, mica fa schifo, l'hai detto come fosse una mondezza, ho percepito male io il tono, come dire che si dice una mondezza, andate. Ah, perché c'è questa spezzone lungo di RG58 attaccato al commutatore per poterlo portare qua, no, ma parecchio, quindi perde qualcosa, ma per dire, io vi ascolto con lo scala tutti e due. Ah, ok, no, ti posso dire qua c'è salito il segnale, c'è tanto da 9.10 a 9.18, quindi. Infatti, già me ne sono accorto, mi ha fatto anche il QRM, cazzo adesso è un bel un altro, cazzo è tremenda adesso. Ha portato la 3 fuori? Sì, la 5 piazzato. Il palo, il cavo, tutte le cose, la multibanda ho messo. Ui ui ui ui ui ui ui. Io ce ne scampi e gamberi. E quella riscone tutta in acciaio, cresce anche in trasmissione, ne ho messo. Il tutto e non lo sento più lamentarsi. certo, dall'altra. Almeno adesso ci sentiamo chiacchierare forte e chiasso. E 5 minuti ho guadagnato al livello della strada. Ho finito poco fa di arrangiare il tutto e pazzo, ho mangiato e mi sono coricata che va, sono un ribabbo. E dai, così dovrebbe radiare bene e dovresti ascoltare un po' tutti, dai, poi quella è una signora antenna, perlomeno, per come la vedo io. Sentivo io, è una signora antenna, capo. Tu arrivavi forte a malasotto, da tutte le parti. Io che ero coperto, già lo sai com'è. Adesso dovrei essere più libero, vediamo un po' da lontano, perché da vicino è inutile, non si vede la differenza tanto, capito? Ma da lontano, quando tu senti e puoi trasmettere, è tutta una fabbosa. La 5 e la 1, la Mantova 5 e la Mantova 1 hanno un'unica differenza, radiale in più. Molta differenza c'è tra la 1 e la 5, invece è la turbo. La 1 e la 5 hanno i radiali spiralati. All'interno di quelle dei radiali, che sono in fibra di vetro, c'è una spirale. Una spirale che, calcolando la lunghezza ellittica, è 2,75 un quarto d'onda. Quindi ha la mantova 1, 4 radiali a un quarto d'onda. La mantova 5 radiali a un quarto d'onda. Invece la turbo ne ha tanti. Un bel... Però sono di 1,10 tutti quanti. Se tu te la analisi al PC, ormai sono programma di analisi, vedi che si alza il lobo di relazione, si alza e basta. Il guadagno c'è, però verso l'alto, cioè in DX. No, il cavo non lo sta fatto dalla moto per 5, che ricevevo bene, e l'abbiamo attaccato direttamente alla turbo. Il cavo è rimasto uguale identico. Intanto faccio pausa perché sento tutti gli altri sotto parlando e penso che siano alla zona di qua invece sono di fuori. Ha lasciato lo stesso cavo, ma è stato vicino perché anche ha messo anche il cavo. Perché tutti quanti mi hanno detto se l'antenna riceveva bene, cambiando l'antenna non succede nulla, gli attacchi sempre lo stesso cavo ma non c'è niente. Perché in effetti io, anche se era capottata, perché guarda che caso strano, si è rotta la resina che entra dentro lo stilo della mantova, si è staccato quello lì, però era sostenuta da quella serpentina che c'è per le stazionarie e si è coricata sopra l'antenna TV. E ascoltavo bene ugualmente, anche con l'antenna capottata, ascoltavo bene ugualmente. Cambiato l'antenna, ho finito di sentire tutti i corrispondenti che erano lontani. Ah, stai dicendo che stai ascoltando con l'antenna coricata, cioè in orizzontale. Ciao! Ma allora ci vedi una direttiva, bello bello. Lo so che c'avevo una direttiva, però ascoltavo bene, anche con l'antenna capottata. Poi è arrivata l'antenna nuova e sono salito su e l'ho piazzata. Però con questa qui, che non ho fatto niente io, Antonello ha piazzato l'antenna, le ha controllato le stazionarie, l'abbiamo messa su, siamo scesi a casa a parlare con te, con Luca, con Domenico, con Giuseppe, con Falchetto, tutto andava bene. Quando se n'è andato poi Antonello, l'indomani, stavamo ascoltando i camionisti andando fuori, con Domenico, che la sera va a Urbia. Ripeto, se tu stavi usando l'antenna capotata stavi usando direttiva e quindi è chiaro che la recensione è molto più alta, solo nella direzione perpendicolare all'asse dell'antenna. Stavi usando una direttiva, allora sì, allora si spiega tutto quanto. Se tu hai la possibilità di accedere quando ti pare ti piace al tetto, prendi l'antenna che hai, la metti in orizzontale e vedi che ascoltino tutti quanti. E quello è il bello della direttiva. Praticamente si mette una 5 tappi orizzontale. Guadagna solo una determinata direzione e ascolti di brutto. Diventa un dipolo orizzontale a 5 ottavi, caricato, alimentato a un estremo. Riprendi in alta la house e te la trattendi praticamente con un dipolo a 5 ottavi. Un alta la house non c'è più. Avanti, Falchetto. E ti sono dormiti tutti i grandi. Ma non penso, Falchetto, che se si è addormentato sicuramente l'avrà chiamato la moglie per mangiare, per caricare. E niente. Sì, Adriano, l'ho capito io, che quando mi si è coricata la stavo usando come direttiva. Però io, con l'antenna dritta, ascoltavo bene tutti quanti comunque. Poi, quando si è capottata, mi sentivo ugualmente e trasmettevo ugualmente. Però, quando poi è arrivata l'antenna nuova, perché io con l'antenna capottata sono stato all'incirca un mese. Poi, come è arrivata l'antenna nuova, piace tanto avere un'antenna nuova sul tetto, è davvero una cosa di nessuno. Ma mi sembra un po' strano che c'è questo cambiamento. Ormai c'è così un leggero cambiamento di segnale, ma addirittura a dirmi che senti, che ti accorgi che spariscono. Capisco un calo di segnale, ma addirittura che non ascolti più nessuno, solo dai 100 vuol dire che è vero. E allora magari dovresti darci un'occhiatina, non so. Penso che il capo sia un po' vecchiotto anche, magari. Staccato da una parte, attacchi dall'altra, stazionale non te ne segna, però non sta bene che tiene il lucido. Cioè, esiste, la presenza del capo c'è, come lo muovi, entra funziona l'isolamento elettrico. Non c'è più la massa, a questo punto dovresti fare le prove, perché insomma... a dire che la masturba faccia tutto questo cambiamento è una cosa un po' grossa a questo punto. Ma strano, ma vero, poi se non mi credi puoi sempre venire, ci prendiamo un caffè e la guardi, no? Non è che io vado a dire una cosa per un'altra, siccome sia la masturba 5 sia questa qui la piazza di Antonello, e Antonello stesso ci può dire che qui nel circondario di Sassari, diciamo così, ne sentono tutti forte e chiaro, però come esci fuori io ascolto tutti molto bassi, come può farsi quando c'è la e bassissimo, però gli altri, quelli piccoli non li sento, tu mi stai dicendo che c'è propagazione, c'è quello, c'è quell'altro, io sono ignaro di tutto perché io qui non sento niente. Ma se la fate invece che ha cambiato qualcosa da parte, non ho già pensato. Non è che per caso se ne è sceso la trappola, fatemi il telefono, scusa. Avanti! Avanti! Papa che ti sento, ma tu a me non mi senti? letto. Mancava la modulazione e poi riprendeva. Aggiungi, la sto scendo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso no. Male. Adesso va bene. Meno male. Bene, bene, bene. Ci sono un paio di due otto involtine, un poco di banzetta a ruscio. Se uno di quelli da casa del riposo, va meglio anche il latte con quei 2-30 biscotti. Tutti fanno i latti, è un paio di dozzi di vino, è andato. Vale. Due anni una cifra di cosa va? Due anni uno. Due spaghetti a Giulio, ha detto Mario. Io mi ricordo quando ero ragazzo, avevo 18-19 anni, che avevo la passione, avevo attaccato all'apparato fino alle 3-4 di mattina parlando, e facevamo l'aglio e olio, e andavamo tutti quanti 10 minuti, 15 minuti a farci l'aglio e olio, poi prendevamo l'aglio. Bei tempi, minchia, bei tempi, quando c'era la rosetta, quando c'era Panino, quando venivano tutti quanti chi ti via. 22 anni sono passati, io sì. In effetti gli anni passano e volano, non ce ne accorgiamo neanche. Ne sono usciti male, ogni volta che ho fatto questo pezzo di forno, la ventilazione forzata, esci male, si zecca e quindi, anche perché c'ho da fare domani, quindi mi conviene a me a farmelo cucinare agli altri. L'ho fatto tre volte che ho fatto a farmelo cucinare nel forno a legna, in pizzeria. Altrimenti lo faccio in forno. Prima lo facevo con un altro forno, che era lo stesso elettrico, la ventilazione forzata, però usciva, non si ficcava. No, il mio è il forno normale. Cioè io c'ho il forno a gas sotto e poi c'ho il grill sopra. Però io accendo il gas, metto la teglia dentro in modo che tutto l'olio che scende nel forchetto, quello che non si piglia, diciamo così, rosmarino, cade nella teglia. E a lui lo metto lì, a mezza altezza del forno, cucino bello, tranquillo, piano piano, ci metto sempre quelle 2 ore, perché non è che il forno lo metto a manettone, lo metto a temperatura media, intorno ai 160-180 gradi. Lo metto lì per 2 ore lui, bello, tranquillo, adagiato bene sotto il rosmarino, così gli dà quel profumino. Questi giorni non c'ho tempo e i bulimia fa a fare prove cattive vari, meglio che me lo faccio cucinare la fornificazione della B&Q. Sì, beh, guarda, visto che te lo fanno non c'è problema, però quello che ti volevo dire io poco fa, che magari questo uovo, il termostato, può essere regolato diversamente, magari tu lo stai mettendo a 160 gradi, invece lui è a 200 gradi, capito? Può essere anche che il termostato che loro hanno messo sia di diversa tipologia, cioè tu lo metti per dire al terzo scatto che ti dà 260 gradi e magari con questo nuovo anziché 160 ti dà 200 gradi e praticamente viene fatto, sei, fatto diventare legnoso perché tu ti regoli sempre con quelle 2 ore e invece magari in 1 ora e mezzo dovrebbe essere a posto, per dire. Sì, sì, esatto. Eppure siccome il forno è di quelli buoni, un giorno voglio prendere la curiosità di schiaffarci la sonda. La sonda termica misura a quanto corrisponde effettivamente il termostato alla temperatura interna del forno, perché di quei forni acciaio ossidabile, 2100 euro, deve funzionare a Malaga. Quanto l'hai pagato? 200 euro? 900. Avevo capito 200, perché ti stavo dicendo, se 200 euro il prezzo già è buono, che ti hanno risentito io? Oh vabbè, è tutto un acciaio inossidabile, ed è caro per quello, però io ho un Ariston da quando abbiamo comprato la cucina componibile qui, e funziona sempre bene. A 200 gradi poi come vedo che il forno è un pochettino caldo, allora me lo regolo ai 160, ce lo metto dentro e via. Ehi, 201, no, cioè, non è quelli cucina, cioè non si dà dentro e fuori. Sì, avevo anche un Ariston e me l'ho buttata via e ce l'ho. L'ho messo da parte perché si è imparato di... spazi di bruciatori non si trovano. L'ho messo da parte i bruciatori e la resistenza del grill. Lo stesso in acciaio inossidabile Ariston. Quasi quasi mi serve di venire in idea che invece di buttare prima le cucina fuori i porcetti che si siano in un buon bocca. Ma guarda, io te l'ho detto, io prima, a prima chito appena che lo accendi il forno, per non aspettare troppo, lo metto prima a 200 gradi e lo faccio scaldare, diciamo così, intorno a 10 minuti, un quarto d'ora. Dopo vado lì prima di mettere a lui dentro il forno, vado, me lo regolo bene a 160 gradi, ci schiaffo a lui e lo lascio lì 2 ore di orologio. Quando vado, lui è bello che fritto. Conosci l'attrezzo, ognuno conosce la macchina di lui. Sì, a me non mi ha mai tradito la cucina vecchia, il forno vecchio. C'era 10 anni, però guardano, è nuovo, vabbè, c'è non si dà, tutto quanto digitale, col turbo, col cazzo, però a Natale mi ha arruinato il buchetto. Probabilmente. Bisogna farci la mano e basta, da conoscerlo. Andai, il capo del positivo, è vero, e allora che se la prima pagliata di un caffè a posto d'oro. fatta la modulazione, cioè se risolvi ti compra la modulazione, coma, devi andare a fare controllo. Si vuole portare la chiave del caffè produttore, sì, a 140, come la fa volta. Antone, butta un filo fuori dalla finestra, cazzo che si vedi, esce zero. Vabbè, aspetta, già passato l'altro, fatti il fischio. Sempre la mia accoppiate. A voi, Arca, buonasera. Ciao Antone, salutami agli altri, già arrivano qua. Sono a Carbonazzi, cambio. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Mario, buonasera. Antenna interna attaccata al termosifone, cambio. Te stai arrivando forte e chiaro. Cappa, cappa, ma c'è tutto pronto, ecco la cosa. Ho chiamato una ditta, ci sono arrangiati loro Mario, se no non li bucavo vedi. Ho fatto già tutto, sono ancora accampato, ma comunque là, ci siamo quasi. Sento anche Adriano, Santiago 5, non c'è problema, non so se lui mi sente a me. Ciao Claudio, buonasera. Sì, non sono sordo. Ah, però non sono sordo. F3 Radio 5 più. Alguglia. Sì, indica Carbonazzi. No, ma sono andato al monte, sono tornato a Carbonazzi e la prossima settimana rimonterò tutte le antenne, cambio. Ah. Boh, come mai? Non sta bene qua, ma non me l'ho piaciuto. Sono meglio qua, la casa è più grande e ho deciso così. Ok. Ho preso la casa che c'era mia suocera, capite? Quindi l'ho tutta messa a posto, stavano facendo i lavori sulla mia stanza e Giulio mi sta terminando il nuovo tavolo operativo e poi praticamente sono alla grande, là. Ok, avanti Antonetto. Ti ascolto bene, io sto facendo con un'antenna normale con gli scopatori a testa. Messo nel salone e la vecchia la fattura della macchina, la tubo di volo, l'ho messa nel laboratorio, perché? Usiamo il modulo con l'antenna, la dove ci sono due parecchi. Uno stava a sellarmi, quando la giugata di fabbrica per non te la volete, per non la giugata. Ma avevo qui il modulo qui, c'è un salone grande, grande, e c'è anche il televisore vicino. Praticamente 80 cm di antenna attaccata al termosifone con 440 basta qui, perché tutte le radio sono qua in terra che non c'ho il posto per mettere, poi non c'ho le antenne, perciò era giusto per fare scaldare un po' la radio, basta, niente particolare. Vabbè, c'ho gente, vi saluto, un abbraccio a tutti e ci sentiremo quando le antenne sono operative. Mario, a te, se mi ascolti, cambio passo, compro e vendo. Cappa, ciao qua, auguri e buona Pasqua a te famiglia e ce la rileggiamo alle prossime. Vai a te. Ciao qua, ci vediamo di ritrovare se entri, auguri per buona Pasqua per la sera, così tu vuoi già un senso. E già sei qua vicino si sente. Avanti Andrea. Ciao Claudio. Buona Pasquetta, sentiamo alle migliori, spero che ti sia bello pimpante come hai detto sempre ascoltato, rinnovo le buone feste, allora vedi fatto unire la rapida un fame, Mario, va bene di bucchetto da mezz'ora, come hai fatto venire fame, bisogna che organizzo qualche cosa, riprendi tu Mario. Oh Mario, tanti auguri anche a voi di buona Pasqua, a voi famiglia, a tutti, ci sentiamo al limite domani perché lunedì non ci sono, che sono fuori Sassari. Ciao a tutti, buona Pasqua, alle prossime, grazie. Ciao ciao qua, tutte le prossime, dai, divertiti e ce la riascoltiamo quando sarà tutto graffiare le graffe che sono rugginose, le graffe del palo sono rugginose. Ecco perché non c'è ricezione. È come avere un pezzo di paletta appoggiato in terra, senza raccolare al muro, senza niente. Più lungo lo stile, arrivato in sala sport e come non ero sceso. Sono la deceduta stasera. Allora a lui, ma non ho avuto sua risposta e quindi pazienza. Ma al limite te lo mando su io a lui domani. Ci sei a casa tua? Io sono a casa domani mattina, anche domani sera. Al limite se passa qua, se c'è il traccio, lui giù e bisogna fare qualche modifica in quella ringhiera, in modo da mettere in antenna come si deve. Va bene, dai, allora passo io domani mattina, ti prendo, già tengo contabile così, sale lui a chiamarti. C'era Mario Mao, un ragazzo schiacciava e basta, però per la nessuno. Ho aspetto fino alle 10, perché c'era la conta, non può tirare alle 10. La poi ci ritrovava, non è entrato più, quindi vuol dire non ne fregava niente, e prima sono uscito, ho fatto la spesa e poi sono andato qua. No, non è che non le fregava niente. Allora, siamo entrati alle 4 in radio, io l'ho falchetto, poi si è affacciato Antonello. Thank you. non ci sono problemi. Maeso, FT 23. Ah, ho capito adesso. Che cazzo dice Gesù? Dove si non parla? Già capito cosa stai dicendo, i tasti della memoria. Cappa, me ne ho dato un altro preciso. Ah, vabbè, meglio così. Così c'è la cuffia. Mi mancano un 680, un 140, un 440 di apporto. E la Yeis? Oh, grazie, uno no. Ah, guarda che io faccio il 40, ce l'ho già, il 140 ce l'ho già, e manca 680. C'è lo spazio giusto, giusto, K. Ah, ma K, prima devi mettermi dentro la cassa la notte, poi te lo porti via. Dai che io me lo compro, Popù. Non aspetto che muoiano gli amici per avere un apparato, K. Non ti preoccupare, tra poco siamo al 2012, aspetta 2 anni, cazzo, boh. Magari l'anno 21 me lo compro, o quest'anno a Natale, chissà, boh. E adesso 140, il 440 sono qua. Meglio così, è ora, è ora. Perché, con cosa pensi che sto modulando ora? Non lo so, modulando. La verità io sono questo modulato con 3009 e con l'antenna che mi ha regalato Stefano la Sub 27 che si quantava, la verità è un cesso, però va bene lo stesso, per poter fare le prove va bene lo stesso. Io invece sto chiacchierando con il 44. Andrà bene, meglio così. Chi c'è rimasto? Abbiamo sparito, tutti altri sono spariti così, solo noi ci siamo girati. Ma Adriano non è sparito, Adriano ha detto che parlando di porcizi, di questo e di quello, gli è venuto appetito e gli è andato a sbranare qualcosa. Vabbè, meglio così. Carta di positivo. così. Sì, perché sa, è Pasqua e bisogna darsi da fare, dai. Mazzatevi in varia. Grazie, grazie. Prego, prego, fammi il ravioli di tubalo bene. Il progetto mi piace mai ravioli, è un ricco di già. Non lo mangiavo mezzo filo, ma solo io. Giuseppe, Velatorio e compagni, che chiama? Tutti morti in India. Ah, yeah. Vero, bro? Ehi, io. Va bene, meno. Che volevo dire? Riprendi già dopo. Dimmi. Riprenditela. Ehi, aspetta, oggi non ci parla. Ancora, cazzo. La voglio avere la pagina alla regista con lui, con la fiaggio e ziola. No, no. Mica devo usare sotto, no? Uso sotto io, mi faccio la cipolla sotto. Ma te, Mario, te. Cappa, cappa, è a lui, è sempre il pornografico, già si intenta con uscita la corsa, ma pulsi l'uso, ti hai recuperato, via, va. Le stavo raccontando di stamattina, qualche appuntino, che siamo dalle 4 in radio, ma adesso siamo matti. E si conferma, dalle 4 stamattina in radio, è allucinante, ma vero. Già mi stavo girando la tappa alle 4 stamattina. E poi è bello che alle 5 siamo andati a Itili. È vero, prima sono venuti qua Antonello, Davide, e siamo andati a pigliare il forcetto a Itili, certo che è casino, ogni avventura, bubù. Brava, brava, ma c'è anche bucato la bomba, così. E già, quando stavo partendo ho trovato una pietra che era sporgente. Cioè, quando sono salito era dalla parte mia, l'ho vista e l'ho schivata. Quando stavo scendendo stavo parlando con Antonello e diciamo che ero leggermente distratto. Cazzo, il momento era giù sfiorata con la gomma, ma ti ha fatto la gomma. Ma con le scopre ce l'avrebbe almeno, sì. Sì. Buonasera, ti ho parlato. Buonasera a todos. Buonasera, vi apparo. E io acca, poi dopo una dura lotta siamo usciti, che ci siamo bestizzati con i piatti, siamo usciti dal ristorante, eh? Brava, brava, va bene. Ah, il ristorante dove siete andati, c'è venuti. Ci siamo andati a mangiarci una cosetta, vai. Non ho sentito a consideriamo che siamo a Bari dalle 4 del mattino, eh? Già per il positivo. No, io dalle 4 fino alle 5 poi mi sono assentato e ho ripreso praticamente alla 1 a ricercare il radio. Cappa di Rogero, ferma Benemera. Antonello, riprendi. Antonello, è andato a girare le cipolle. Cava, cava, carta. Attento, Adriano, se ci sei, cambio. Solo. 25 penso che deve andare a prendere la coppia di luce, così, ecco. Qua c'è tu di vecchia. Cos'hai detto, Vela? Qua c'è tu di vecchia, con una con la fuoca. E te sarai? E fa che? Sarà di tisera. Mi sarà... Ma... Vabbè, che ci so... Se siete in macchina, ma non si può dire, eh. Comunque, qualche traccia di nicotina se la lascia, anche la scommata, la frisciata lascia, Ma se poi c'è anche il peperone, mi sono messo il cipolle, e c'è anche la fiammata, il fuoco esce. Ma noi siamo un tavolino. signore, e per questo non facciamo dei modi un po' moderati. Ma non abbiamo parlato niente di male, io mi non ho fatto nessuna allusione, già lo sai, sei tu che l'hai capito. C'è quello che si mette il coltello, la palla dentro, eccetera, eccetera. Già bisogna fare 40 volte, ormai sono sempre le stesse cose. Oh, c'è gente nuova, no? Ci sono personaggi nuovi, hanno fatto vedere quelli con i pattini a rotelle, che giravano questa specie di pista di birilli in terra, incrociavano i piedi, ma guarda, è una cosa spettacolare da vedere. Adesso dovrà uscire questo personaggio, non so cosa dove si fare, comunque ho spento tutto e mi sono entrato di nuovo qua alla radio. Non voglio mettere più di tanto, io sono dalle 4 di mezzanotte, sono qui a clic e clon come a salvare i serrami e andiamo da cucina. Ah beh, già ho fatto un latte con i 30-40 biscotti. Beh, fatto, mangiato, siamo già in fermentazione. No, mi sono mangiato un po' pezzo di formaggio, un pezzo di salsiccia e mezzo palla, giusto per mettere qualcosa dentro. Ah, ecco, mi sembrava strano. Perché io conosco uno qua per questo che si fa il latte verso i 10. Non faccio nomi, Natalino, non fa uno. Sono rientri, stavo intonaccando il porcetto, visto che era da quelle parti. Pappa, gappa, già va bene, già. Già va bene, mi è entrato un vela, era con la rispettiva famiglia. Adesso stava ritirando la gringhella e niente. Riprendita. E chi c'è rimasto? Sei tu? Te è Antonello. E Mario Vassar. Ciao, via, salutori. Ti ascolto molto meglio, adesso sono nel tavolo con la campenna. Sei Santiago di Volata e Santiago di Buona Figura di Giù. Stavo dicendo, ok, ci manca l'altro 1.600 primati, aspetta, quello che ha fatto Salisi, quello Sale, una volta alla Banco di Sardegna, ha preso il cemento, ha preso la lapide, ci ha messo il falattino e ha preso tutto dentro, in 10 minuti. Sì, sì, vabbè, cemento preso la lapide, è ovvio. Quello come lo metti si secca in un istante, è vero. Sono dei bei programmi da vedere, veramente belli. Quello ha fatto sale per la borsa, ha preso con la moto carrozzella, ci ha messo già pronto, con la mattina si è andato tutti quanti dentro, dopo che sono entrati al lavoro, ha preso la chiusa dentro, ha pronunciato per le cose, per le scoperte, vediamo noi la cosa, un circuito di persona. Se la dentro. Lo so che quello lì è un reato, quello è sequestro di persona, buon friendis. Adria, bubu. Io sono diventato sordo io, o c'è Antonio che se ne è calato ancora di più, signore. Mi tocca alzare un bel volume per capire che cavolo sta dicendo. Capito che sarà fare il nevo giro a pesare l'apide. Ho preso l'intonaccato, nel senso che ho messo aglio, ho fatto l'intonaco, aglio, prezzemolo, rosmarino, mirto e olio e la gente un azzardo, così domani è pronto a finire nel forno. Abbiamo venuto la fame. L'avete giunto la fame? Sì, stata fame, detto al certo, quando ho detto porcino, eccetera, sempre la fame si aveva, ma stava... Sapevo quando l'hanno fatto la pari mattina. Così, domani è pronto a buttare nel forno. E poi non avete... Stavamo a parlare dei porcetti cattivi, alla fine... mi è venuto anche a me la fame e sono andato a sbirciare, insomma, ho detto un paio di voltini e ho approfittato a organizzarmi così poi stanotte faccio quello che mi pare mi piace e sono tranquillo per domani. Stava lì e invece Mario ha fatto quel litigio, sei ancora Mario? No, non c'è più. Sono qua, sono qua. Sono qui in piedi dal 4, non ti rendi la palpebra. A me no, io sono bello tranquillo, rilassato, davanti alla radio, e niente. Mario, dormi 2 o 3 ore, se mi ricordo male, diciamo 2 o 3 ore, così Mario che dormi, non di più per ora. La settimana di oggi, non mi sembra che non fatto quasi un delfino, e andava il comio. Un certo così per spenchire. Hey, infatti. Ma forse magari perché io adesso lo faccio per lavoro, che mi sembra FC, quindi mi sembra un po' una cosa paranoica, se appiccicati al PC. Però siccome la passione della radio ce l'ho sempre avuta, la passione del PC, da bambino lo stesso ho preso uso sia il computer sia il PC, ma per collegare il PC alla radio, che ci usava lo stesso, però a stare lì con fomentati che hanno abbandonato la radio e stanno lì chattando, cazzeggiando, per fare il tempo. No, io no, non mi interessa, cioè ce l'ho, ma gioco col biliardino, col flipper, con le carte, qualche volta faccio, diciamo così, curiosando lì, guardo qualcosa lì della Facebook, ma niente di particolare, davvero, non me ne frega proprio niente. La radio è sempre un dialogo diretto tra amici. Diciamo che è meno anonimo. È troppo facile da scordersi dietro una tastiera, puoi dire quello che cavolo ti pare, ti piace, nessuno capisce una mazza di chi sei o cosa sei o che cavolo dici. Invece dal microfono, anche se non conosci una persona, già la pesa e la valuti sull'istante. Beh, ma diciamo che noi che ci siamo un bel po' di anni, bene o male ci conosciamo tutti. Anche portata alla radio, anche all'ospedale. si conferma. Antonio, ancora ci sei? Antonello. Antonello, si sta fanno con le cipolle. Si sta fanno con le cipolle. E cosa stava facendo a quest'ora con le cipolle? Uno non ci può fare a quest'ora con le cipolle. Cosa la vende? Boh, era semplicemente ziosa, era sciagosa, non ho capito bene cosa stesse facendo. Anche, ora di ziosa. Vabbè, ognuno c'è. Se non la fa, la faccio affrettata con le cipolle. Quello che è su. fatto di sopra, avete degli osso. Parla, si fa roba di mangiare, io mangio. Quello che pochetto, mi mangio un pochetto, agnone, mangio agnone, quando vuoi fino a uno, non mi cura a voi. Adesso a ciacchi non ne ho. Mi c'è toccami le peotta, solo che mi... Yeah. stessi errori che hanno causato quella roba lì, perché probabilmente se è successo quello lì e ci avevi già debole da prima. Ci voleva solo quello spunto lì dello scorso per schioppare. E mo sai che gli deve avere una regolata, perché adesso sì, leggermente più debole, ma comunque. Che te volevo dire, no, niente, vediamo se è rientrato Antonello, altrimenti ti saluto. Sì, mi ha salutato. Sì, Antonello, mi sta aspettando, così devi salutare, perché vado a... che mi stanno chiamando. Vado a fare una cosa. Sai che è Mario, che è così di Ziota. Quello, per quanto di quell'altro, e quello del genere. Capito? perché tu vai a comprare il pane, non possono trovare a 4 euro il chilo, in un altro posto lo trovi a 3 euro, nell'altro lo trovi a 3 euro e 30, nell'altro a 3 euro e 60, cioè dove vai mai i prezzi non sono mai gli stessi, da uno all'altro cambia. Che qua l'unica cosa è l'unico, mi sembra che paghi un sacco di soldi e paghi un taglio e poi ci sarà, cioè basta. Se poi vuoi la toppare non paghi la metà, ma è cingomba. Oppure anche c'è un vizio di fare per toppare crudo, capito? La gente si compra il pane crudo perché io capito sono in ghiacciaio, nel fornetto e sono scappato a casa. Però per quello che facevano che facevano tipo le ripetizioni per tutti, facevano il parigiano per tutti, dentro di questo ghiacciaio si immagino per la settimana. Purtroppo adesso c'erano quelle condizioni di la gente, quando i parigiani si pare i bianchi non solo. Facevano che c'erano quelli ben tutti, duravano anche 2-3 giorni. Adesso cambia tutto purtroppo. E cosa ci vuoi fare? Gappa, no? Un momento. Non sono 30 kg. è come se quello che spendi ogni due mesi. E c'è qui 50 euro di pazzi, e lui quando ti ho pagato 80, 120 io. Figurati. No, io dalla rete mi sono fatto staccare perché gli ho detto che stava diventando una truffa, perché io mi sono fatto i calcoli e allora la bombola che uso per cucinare mi dura tutto il mese, la bombola che uso per lavarmi mi fa quasi un mese e mezzo. Quella lì, quando tu apri l'acqua calda si mette in moto in automatico e via, capito? Così che non c'ho consumo di corrente elettrica, non c'ho niente, capito? C'ho il gas, però il gas per lavarmi, e siccome si può dire che sono solo a casa, perché Davide sta dormendo a casa del suocero, così che a me un mese e mezzo mi basta la grande tranquillamente, e invece quando venivano loro con il gas del bombolone 120, 140, capito, sempre molto grosso, e allora gli ho detto no, tu ti tieni un po' gas, io vado e metto la bombola e mi collego con la bombola e va bene così. Sì, è fatto bene, guarda, è fatto veramente bene. Perché in caso uno è stato liquida. Ormai è proprio con la benzina. Ogni giorno aumenta, sempre aumenta, non diminuisce mai, il discorso è quello. Adesso questo diminuisco le bollette della luce e aumenta anche la gas. Altre cose sono tutti con noi. No, questi qui erano venuti a casa, quindi dove ci avevamo il contratto, e con una scusa hanno chiesto il contratto e ce l'hanno portato via, non me l'hanno restituito. E poi hanno iniziato gli aumenti. E niente, poi a un certo punto questo signore che veniva a pedire il gas si voleva pagato da noi, cioè ogni lettura che lui faceva io gli dovevo dare 10 euro per farmi la lettura del contatore. Io gli ho detto, ma scusa, tu sei dipendente di chi? Per chi lavori? E allora te ti devono stipendiare loro, mica ti devo pagare io. Dice, ma sai così colà, no, no, no, ferma tutto. Stacchi tutto, io non devo pagare niente perché non sei un mio operaio, e te chi ti deve assicurare, chi ti deve pagare è la ditta che ti ha dato l'incarico. Io non ti ho dato nessun incarico, pertanto ti porti via tutto quanto, vado, ti compro la bombola, oltre che risparmio, perché risparmio più della metà, perché da pagarne 120-140, pagarne 50 in bombole, mi conviene più le bombole e ci sto bene alla